storia di foglie dai mille colori. È un prato di amori e di eroi, a volte un po' stanchi. La nebbia sui campi accarezza le rotaie di quel treno che forse no, non passerà. Ma il suo diradarsi l'azzurro del cielo è così azzurro come non lo è stato mai. Respirerò tutta l'aria del mattino che c'è e cercherò di dare un altro calcio a tutte quelle cose che divorano il mio tempo. Poi salirò sulla torre dei pensieri e li guarderò come fossero altalene che mi fanno girare un po' la testa ma mi mandano lassù. Alla tua magia.